Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Ci sono dei capolavori artistici straordinari nel nostro paese. Per esempio, uno si trova nella Pinacoteca Francesco Podesti di Ancona, che probabilmente non è una delle pinacoteche più note d'Italia, ma all'interno ci sono dei capolavori stratosferici. Uno di questi è venuto a Milano per un certo periodo e si tratta niente meno di una delle opere più importanti di Tiziano Vecellio, la cosiddetta Pala Gozzi. È un quadro votivo, una Madonna col bambino seduta su delle nuvole incendiate dal tramonto, dalla luce del tramonto, e in basso ci sono due santi, San Francesco e San Biagio. E San Biagio presenta alla Vergine in alto chi ha pagato la pala, cioè Alvise Gozzi, da cui deriva il nome di Pala Gozzi. Questa pala è stata portata a Palazzo Marino e resterà per parecchie settimane a Milano, ed è una pala molto interessante perché è stata realizzata nel 1520, quando Tiziano sta esplodendo come il più grande pittore della Serenissima. Infatti Alvise Gozzi, che era di Ragusa, cioè era di Dubrovnik, ma che lavorava ad Ancona, e quindi aveva deciso per la propria tomba di far costruire un altare davanti alla propria tomba e di mettere appunto un'opera così importante e così costosa. E infatti il dipinto è pieno di riferimenti a questa strana triplice presenza delle città di Ragusa da un lato, di Ancona e di Venezia, perché infatti sul fondo, per un quadro che è stato fatto da un ragusino e che è stato fatto per Ancona, non si vede né Ragusa né Ancona, ma si vede Venezia. Perché mette Venezia? Bene, gli studiosi si sono rotti abbastanza il capo per cercare di capire questo enigma e hanno capito che si era trattato di un momento politico molto chiaro. Nel 1520 le due repubbliche marinare di Ancona e di Ragusa accettano il primato di Venezia. Ed ecco che nel quadro San Francesco, che rappresentava la chiesa di San Francesco ad Ancona, dove la pala è stata collocata, e San Biagio, patrono di Ragusa, guardano la Vergine, cioè Venezia, la Serenissima. E quindi è un quadro che nasconde un significato politico che a noi oggi, a tanti secoli di distanza, un po' stava per sfuggire.